America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Des Moines in Iowa, Mario Platero. Let me first of all say, to God be the glory. Ted Cruz in preghiera, il senatore del Texas ringrazia Dio prima di ringraziare i cittadini dell'Iowa che gli hanno consentito di battere Donald Trump con il 28% del voto contro il 24% di Trump in questa prima tornata elettorale americana. Nei sondaggi quei dati erano invertiti a favore di Trump. Prima sorpresa. Iowa, thank you! Bernie Sanders invece ringrazia con cuore il popolo dell'Iowa perché gli ha dato il 49,6% dei voti, di fatto ha pareggiato con Hillary Clinton che ha avuto il 49,8% dei voti. Però nei sondaggi Hillary sembrava avere un forte vantaggio superiore al 50%, di fatto ne esce con una parziale sconfitta. Seconda sorpresa dei risultati del caucus dell'Iowa, la terza è invece l'ascesa in attesa di Marco Rubio, senatore della Florida di origine cubana e fra i repubblicani, ha ottenuto, pensate, il 23%, a un pelo da Trump, e ora, secondo me, è proiettato nel limbo dei possibili candidati per la nomination. CNN projects Ted Cruz, the winner of the Iowa caucus. Una volta di più, dunque, l'Iowa ha rimescolato le carte della politica americana, ha colto in anticipo il sentimento di protesta del paese, ha espresso un voto contro l'establishment, contro la potenza, ad esempio, dei Clinton in campo democratico, contro tre governatori, tra cui Jeb Bush in campo repubblicano, governatori che sono stati spazzati via da questa corsa elettorale di ieri, nonostante avessero sulla carta le credenziali migliori. Ma nella democrazia americana, soprattutto in quella dei caucus, una sorta di festa popolare, di grassroots, come si dice a queste parti, le credenziali non sono tutto. Vince spesso anche il cuore. I tre governatori in corsa, Christie, Bush, Kasich, che tradizionalmente avrebbero rappresentato la continuità politica del partito, sono stati, come vi dicevo, fatti fuori. Soprattutto è emerso Rubio. Ecco perché vi ho detto potrebbe diventare un candidato per la nomination. Beh, perché alla fine i grandi donatori non avranno che lui come personaggio su cui convogliare risorse e appoggio politico, perché è l'unico candidato presentabile per una vittoria nazionale repubblicana per la Casa Bianca. Ted Cruz, e lo avete sentito dal discorso di ringraziamento, è un estremista religioso e difficilmente potrà fare breccia sulla maggioranza del paese. E Donald Trump, Donald Trump resta l'imprevedibile, divertente, offensivo, provocatore, ma certo non ha la statura, la credibilità per prendere in mano le redini degli Stati Uniti d'America, e questo voto dell'Iowa lo ha provato. Trump non fa presa sul cittadino medio, sul cittadino comune. La corsa ora si sposta in New Hampshire, dove Trump in realtà lì gode di un vantaggio molto più solido nei confronti di Cruz, potrebbe vincere, però Rubio potrebbe fare a questo punto molto bene, soprattutto dopo questo successo in Iowa. La corsa repubblicana diventa adesso una corsa a tre, stretta, difficile, una battaglia a due invece alquanto complessa in campo democratico. Sanders gode di un forte vantaggio in New Hampshire, quindi è possibile che vinca il 9 di febbraio. La coda del successo in Iowa poi dovrebbe portargli nuovi fondi, alimenterà una cassa di risonanza nazionale che forse ancora non aveva. E nella sua dichiarazione che vi ho fatto sentire poco fa, poi continua dicendo che la sua battaglia continuerà grazie al voto dell'Iowa contro i poteri forti, contro l'avidità di Wall Street, contro l'1% che travolge con la sua ricchezza il 95% della popolazione. L'America, ha detto Sanders, ha imparato a conoscermi, ho raccolto 20 milioni di dollari grazie a 3 milioni di donatori che mi hanno dato una media di $27 ciascuno per aiutarmi in questa mia missione. Per Hillary, che pure è una campagna molto organizzata, diventa difficile confrontarsi con un personaggio che fa presa sui giovani e sulla crescente fetta demografica degli scontenti. Ecco, tutto questo come è avvenuto? Un rimescolamento delle carte capitato in oltre 1600 riunioni assembleari, dove ieri notte, in modo semplice, direi persino artigianale, perché sono stato a una di queste elezioni, gli elettori si riuniscono per votare. Ecco, sono stato a una scuola dove c'erano sia democratici che repubblicani. Pensate, sono agli antipodi i democratici che privilegiano Sanders, estremista di sinistra, socialista, e i repubblicani che invece danno la vittoria a Cruz, che è un religioso della destra, come dire, beh, dovrei dire un termine forte, ma abbastanza becera. Eppure erano lì, un gruppo in una stanza, un gruppo nell'altra, e ciascuno seguendo il suo metodo. Come avete sentito, qui vi ho fatto sentire la parte democratica, dove si conta per alzata di mano. Fra i repubblicani invece l'elezione prevede un piccolo comizio a nome del candidato favorito da parte di un elettore. Ecco, sentiamone uno. I want to just take about 2 minutes and 50 seconds to tell you why I'm supporting him, and then when I'm done, of course, ask you to... Ecco, la voce forse in lontananza, però vi dà l'idea di questo piccolo discorso. Parlano senza microfono, non c'è nulla di strutturato, di organizzato. Il voto nel caso repubblicano avviene a scrutinio segreto, la circoscrizione 231 di West Des Moines, dove sono andato, vi ho detto, a seguire questa straordinaria manifestazione di democrazia popolare. Cosa è successo? Non c'erano abbastanza schede, questo nel campo repubblicano. Poi queste schede non erano delle schede, erano dei foglietti. Il capo del seggio li ha tagliati a metà, li ha strappati a metà a mano e li ha distribuiti, e poi tutti gli elettori che erano seduti su delle sedie si ripassavano fra di loro per poi votare, e poi alla fine la conta di un gruppo di volontari, perché non sborsano neanche una lira i funzionari dei partiti, che hanno contato su dei materassi di plastica blu, materassi da ginnastica. Ecco, nel caso della mia circoscrizione, solida vittoria per Rubio con 116 voti contro i 60 di Cruz e 45 di Trump. Un piccolo pasticcio è successo anche in campo democratico. A un certo punto si sono accorti che c'erano 5 voti in più rispetto a quelli registrati, quindi hanno dovuto ricominciare tutto da capo. Alla fine poi è andata benissimo anche lì. Chiedo a uno dei rappresentanti, il rappresentante di Rubio in particolare, che si chiama Tom Paulson, che stava lì in disparte, molto discreto, ad aspettare i risultati. Dico, ma insomma, non c'è il rischio che con questa semplicità, senza controlli, insomma, qualcuno possa barare? I have a great deal of trust in the system they've set up and the people that run it. Ho totale fiducia nei miei compagni di partito, sono volontari che fanno solo il loro dovere, non succederebbe mai un imbroglio. Ecco, lo stesso, con lo stesso spirito, si è ripetuto in oltre 1600 seggi. Anche questa è una dimostrazione di forza per la democrazia americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, grandi cambiamenti ieri in arrivo dall'Iowa, Iowa che tra l'altro sta per essere travolto da una bufera di neve, speriamo che non ci blocchino qui con gli aerei. Eminem, Going Through Changes, attraverso i cambiamenti. I'm rolling for Kelp like Philly. Feel like I'm losing control of myself. I sincerely apologize if all the eyes sound like is I'm complaining, but life keeps on complicating. Da Des Moines è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.